Eccoci allora la soluzione. Ve la ricordate la domanda? La somma dell'età di 6 ragazzi è di 64 anni. Quale sarà la loro somma fra 6 anni? 100 è la risposta giusta, perché l'età dei singoli non ci serve come informazione, in quanto saranno 6 anni in più per ognuno di loro. E quindi 6 per 6 uguale 36 e sommato a 64 ci dà 100 complessivi. Questa era la soluzione.